Vi mostro una cosa. Venite. E vuoi che ti crediamo, illuso? A dopo le parole. L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino. Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni? Scusi? No, se permettete, ora parlo io. Sono Gabriele, bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi è una puntata veramente speciale, spero che l'appreziate, spero vi faccia rendere conto della verità. Quindi partiamo subito, come avrete... se avete sentito la scorsa puntata, alla fine ho parlato di Nemo, non il Capitano Nemo, ma Nemo, il programma della Rai. E quindi facciamo questo scontro tra capitani, nostro Capitano Harlock contro Capitano Nemo della Rai. Mi hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro. Sentiamo cosa hanno trovato di così spettacolare. Ma noi di Nemo in esclusiva abbiamo scovato gli esponenti italiani di questa nuova e sconvolgente teoria del complotto. Gli esponenti italiani di questa nuova teoria del complotto. Solo loro sono riusciti a trovare questi personaggi, no? Perché non c'è nessuno su internet come me che dice che la Terra è piatta. Lui è Franco Candy e pensa che lo spazio sia un'enorme menzogna. È una finzione Flutua. Cinematografica. Gli mettono il fondale bellissimo che vede lo spazio immenso. Qui dice la verità, è una finzione. Usano dei trucchi cinematografici, comunque sono immagini modificate. Però, come vi ho detto, menzogne e verità le mescolano, le mettono insieme. Tanto ci arrivate da sole, no, non penso che siamo tutti così stupidi da cascare in queste... cavolate da cabaret, va bene? Quindi sentiamo come prosegue. Fin qui ha detto la verità, è una menzogna, ci ingannano. Però sentiamo come prosegue. Stiamo parlando di un complotto globale. Sì, e infatti penso proprio che lo sia. Ed è a partire da questa convinzione che Franco ha abbracciato una nuova visione del mondo. Immagina la Terra con al centro il Polo Nord, però è tutta piatta e attorno c'è un cerchio di ghiaccio che circonda quello che sono i nostri continenti e il mare. E anche qui dice la verità. Fin qui sono, diciamo, onesti. Sono onesti, anche se non mi piace come il tono di questo giornalista, pseudo giornalista, inviato speciale, come lo vogliamo chiamare. Questo Franco, ammesso che sia davvero il suo nome e non sia un attore come tanti altri, dice la verità, che la Terra è piatta e circondata da questo muro di ghiaccio. Fin qui hanno detto la verità, però è arrivato un momento triste. Lasciate che vi metta questo sottofondo un po' triste. Beethoven, sonata il chiaro di luna, perché adesso arriva il momento in cui la razza umana fallisce. Non c'è modo di spiegare la tristezza nell'ascoltare quello che sta per arrivare ai vostri orecchi, ma Mi piange il cuore. Mi piange veramente il cuore anche nel sottoporvi proprio voi a queste parole che umiliano l'intelligenza umana, deridono la realtà, quello che vediamo con i nostri occhi, quello che possiamo sentire. Quindi sentiamo questa tristezza, fatevi forza, sentiamo. E naturalmente altre forme di vita. Gli extraterrestri in effetti sono degli extra bordo, nel senso quelli che vengono dagli altri continenti che non ci è permesso di andare a visitare. Ed è a questo punto che Franco ci mostra un documento eccezionale. Veramente eccezionale! Stiamo per vedere un video dove sono stato rapito dagli alieni. La testimonianza filmata della sua abduzione da parte degli extra bordo. Che ho ripreso con la webcam. Franco si riprende con la webcam in un momento di relax. Qui ho acceso la musica. Aspetta, lascia. Ma a un certo punto accade qualcosa. Comincio a sentirmi strano. Ti sei addormentato? Mi hanno addormentato, sì. Come già è successo in passato. Franco sembra perdere i sensi. E poi di colpo. Puff. Trasmettiamo subito il video. Con un effetto da cinematografo dei primi del Novecento, Franco scompare. Ma non è finita qui. Quello lì che arriva. Dalla porta a vetri del salotto, ecco sbucare un ospite inatteso. Quello è un alieno. È un grigino. È di quelli piccoli. Un grigino. Il cuore sta facendo su e giù. Per vedere se in casa c'è qualcuno, probabilmente. E dopo qualche minuto, così come era scomparso, Franco riappare. Io vi dico che questa volta hanno tirato troppo la corda. E quindi io vi dico che chi la fa, l'aspetti. Un grigino. Come? Un grigino. Come? Ah, che sei sorto? Che siete in attributi handicappati? Ma Franco vuole mostrarci un'ultima cosa. Una piattaforma petrolifera a 25 km dalla costa che se la terra fosse tonda non dovremmo poter vedere. Ora, sta maledetta nebbia, se si diradasse, eppure c'è. Vi garantisco che c'è. Oh, finalmente rieccomi. Allora, alla fine dice, non commento la parte sull'alieno, il grigino, ve l'ho detto, è triste, poi mi tocca rimettere la musica triste, mi viene da piangere, quindi lasciamo perdere quella parte perché è ridicola. È ridicola anche che abbiano intervistato lui, no? Vieni a intervistare me, Nemo, Nemmino, vieni a intervistare un vero terapeutista, vieni a intervistare uno che dice le cose come stanno davvero. Non ci vieni, perché non ci vieni? Perché dico la verità, e la verità voi non la dite, in televisione non si può dire la verità, o se viene detta viene ridicolizzata, come in questo caso. Alla fine dice che gli può far vedere una piattaforma petrolifera a 25 km di distanza. Nel video si vede che è lui con un binocolo cannocchiale che guarda, però non si vede niente, fanno vedere la telecamera e non si vede niente, a parte perché c'è la nebbia. E comunque a 25 km di distanza all'orizzonte puoi benissimo vedere, non c'è nessun problema. Perché dico questo? Perché si possono vedere benissimo le isole che sono anche a 50-60 km di distanza, e a volte le possiamo benissimo vedere anche a occhio nudo dalla spiaggia senza nessuno strumento. Se poi prendiamo addirittura uno strumento, allora sì che le vediamo bene, ma faccio l'esempio di Castiglione della Pescaia, se andiamo sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia, guardiamo all'orizzonte, si vedono un sacco di isole che a volte scompaiono, non ci sono, e invece in alcuni giorni ci sono, o le vediamo deformate, tipo un'isola per intero la vediamo spezzata con una piccola isola accanto, ma non è che c'è una piccola isola, si è formata così nella notte una piccola isola accanto, perché viene deformato dall'atmosfera, dall'acqua, dall'umidità, dallo smog, dalla nebbia, ci sono mille fattori, come abbiamo detto, e possiamo vedere da Castiglione della Pescaia, possiamo vedere anche a occhio nudo l'isola di Monte Cristo, che è a 63-64 km di distanza. Quindi chi è ridicolo? È ridicolo quello che potete vedere, osservare, provare da voi con i vostri occhi e con la vostra testa, o è ridicolo quello che vi fanno vedere in televisione? No, perché in questa maniera ci hanno fatto passare me e quelli che dicono la verità o provano comunque a dire la verità, ci fanno passare per dei fuori di testa che credono a teorie assurde perché le hanno viste su internet o perché hanno visto qualche video di qualcuno. No, perché non è iniziato così, assolutamente, è tutto il contrario, perché chi mi ascolta dalla prima puntata sa che è un percorso di sofferenza, sa che non prendo in giro, sono serio su questa cosa, a parte tutte le cavolate, gli scherzi, le risate, quello che vogliamo, ma sono serio su questa cosa, è un percorso di sofferenza. Perché è un percorso di sofferenza? Perché ci rendiamo conto che tutto quello a cui abbiamo creduto e dato fiducia, e magari in cui credevamo o speravamo, viene completamente cancellato dalla verità, e infatti la verità fa male. Penso non ci sia più cosa più dolorosa della verità, però è anche quella che ci rende liberi. Quindi possiamo credere a quello che ci fanno vedere in televisione, possiamo ci provare a cercare le risposte da noi con il nostro cervello. Ci hanno dato delle formule matematiche per poter dimostrare le cose, mettiamole in pratica. Queste formule matematiche, come per la curvatura, sbagliano, perché la curvatura non la trovi, non esiste. Il cartone animato che ci hanno costruito nel cervello sulla nave che salpa all'orizzonte e va oltre la curvatura è ridicolo. Bene, quindi sfido chiunque a dimostrare il contrario, non c'è modo. L'ho dimostrato con le mie mani, lo potete dimostrare con le vostre mani. Quindi chi nega l'evidenza non è colpa sua, non è perché è stupido, okay? Non siamo stupidi, dobbiamo solo, perché ci hanno cresciuto chiudendoci la testa, non aprendoci la mente, ma chiudendocela, facendoci vedere solo un modo di vedere le cose, capito? Non è che alcune cose possono essere giuste, alcune cose possono essere sbagliate, ma non siamo noi a decidere, hanno deciso loro per noi cosa era giusto e cosa era sbagliato, non abbiamo pensato alla nostra testa. È arrivato qualcuno, ci ha detto è così, fine, è così, e comanda loro, e la vita è come ci dicono loro, continuiamo a fare quello che ci dicono loro. Quindi è un complotto? Sì, è un complotto, ma come ho detto, tutte le teorie di complotto le racchiude la terra piatta, perché c'è la verità nella terra piatta, perché è piatta. Poi che ci siano altre terre emerse, come ha detto l'ammiraglio Byrd, quello non lo possiamo dimostrare. Come possiamo dimostrarlo? Non c'è modo. Perché non c'è modo? Perché c'è il trattato dell'Antartico, l'Antarctic Treaty, in cui nessuno può fare il giro del mondo nord-sud, ma solo est-ovest? Perché nessuno può fare nord-sud? Nessuno l'ha mai fatto. Se fosse stato possibile fare il giro di mondo nord-sud, sarebbe già stato fatto. Non è mai stato fatto. Cosa ci vorrebbe? Perché vediamo programmi televisivi che prendono in giro quelli come me? Perché programmi alla radio che prendono in giro sempre quelli come me? O quelli che cercano di dire la verità? Perché è così, perché non vogliono che ci svegliamo. Eppure ce lo fanno vedere negli show televisivi, nei telefilm, nei film, nei programmi, ci dicono la verità, però noi andiamo al cinema e guardiamo la televisione con l'idea che quel telefilm è finzione, e quindi poi dopo, quando ci viene detta la verità, la prendiamo come una baggianata. Quindi cerchiamo di aprire la testa. Volevo continuare perché una cosa veramente brutta che ha fatto il programma Nemo è farci passare da nazisti, o che la Terra piatta è collegata in qualche modo al nazismo o al fascismo, e da parte mia assolutamente no, assolutamente no, anche se vengono nominati gli ebrei spesso, ma soprattutto né da parte mia né dalla maggior parte, penso l'ho sentito solo da Nemo questa cosa, che il terrapiattismo è collegato al nazismo, al fascismo, a essere razzisti. Assolutamente no, mi dissocio completamente da questa cosa. Io ho sempre detto che siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, ci dobbiamo aiutare a vicenda, e invece loro cercano di metterci l'uno contro l'altro. Quindi, come ho detto, io lotto per la verità. Ora vi faccio sentire questo pezzo dove ci fa passare per nazi fascisti, e poi ritorno. Ok, io non vorrei un mondo di tutti meticci, tutti mescolati, in modo che non abbiamo cultura, radici, famiglie. Tramite il nazismo si arriva al terrapiattismo, o tramite il terrapiattismo si arriva al nazismo? Io prima ero nazista. prima è una conclusione inevitabile per noi. Lo sapevo che mi intristivo. Che tristezza. Che dire, Nemo. Né Mino, né Mazzo. Non ci sono parole. Televisione di alta qualità, non c'è. Cos'altro c'è da dire? Lascio la parola a chi. C'era uno prima, voleva parlare. L'ho interrotto. Sentiamo che ha da dire. Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica. Allora? Per me è una cagata pazzesca! Bravo! 92 minuti di applausi! Hai capito? Merdaccia! Questa volta hanno tirato troppo la corda. E quindi io vi dico che chi la fa, l'aspetti. La terra era il nostro luogo sacro, azzurra, un tempo bellissima, ma ora non ha più motivo di esistere. No, direi proprio che non ha proprio più nessun motivo di esistere. Quel bel globino, quella bella pallina, un bel calcio e speditela giù per la strada o in un cassonetto, quella cosa rotonda, sferica, a forma di pera, obloide, sferoide, geoide, sferoide, obloide, peroide, quello che è. E quindi, ve l'ho detto, questa è una puntata veramente speciale. abbiamo già detto di tanti show televisivi, vi ho fatto sentire Breaking Bad, però c'è un telefilm che non l'ho visto, però ci sono delle parti che veramente fanno il panico. Sentite. Speriamo che una nuova società sorga dalle ceneri. Speriamo che voi possiate creare un mondo migliore. Un mondo che dia valore alla gente libera. Un mondo che non incoraggi l'avidità. Un mondo che appartenga di nuovo a noi. Un mondo diverso, per sempre. E mentre lo fate, ricordate di ripetere queste parole. Siamo finalmente liberi. Siamo finalmente svegli. Questo era solo un assaggio. Sentite quello che dice dopo. Sentite. Tu lo sei? Tutto questo ti sembra reale? Guardati intorno. Guarda! Un mondo costruito sull'illusione! Emozioni sintetiche sotto forma di pillole! Guerra psicologica sotto forma di pubblicità! Sostanze chimiche che ti alterano sotto forma di cibo! Lavaggi del cervello sotto forma di media! Bolle isolate controllate sotto forma di social network! Reale? Vuoi parlare di realtà? Non siamo mai stati così lontani dalla realtà dall'inizio del secolo. Abbiamo spento, abbiamo tolto le batterie, abbiamo mangiato sacchetti di OGM. Mentre gettavamo gli avanzi nell'immondizia crescente della condizione umana. Viviamo in casa con il marchio di fabbrica delle multinazionali fondate su numeri bipolari che saltano su e giù su schermi digitali, ipnotizzandoci nel più profondo torpore in cui l'umanità abbia vissuto. Devi scavare in profondità prima di trovare qualcosa di reale. Viviamo nel regno delle menzogne! Un regno in cui hai vissuto fin troppo a lungo, quindi non accusare me di non essere reale. Non sono meno reale di quei cazzo di Big Mac che ti mangi. Ed è arrivato il momento dei saluti. Spero che questo viaggio che abbiamo fatto insieme oggi, in questa puntata, vi abbia dato una frustata al cervello. Vi lascio con questa melodia di sottofondo. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi divertito, fatto incuriosire. Grazie per essere stati con me oggi, grazie a Radio Big World, e come sempre dall'Arcadia è tutto. Alla prossima.